Voglio raccontarvi la storia di un bambino che aveva difficoltà con la scrittura. Oggi si direbbe disgrafico. Quel bambino è cresciuto e fa il medico. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Salvatore Vasta, specialista in anestesia e rianimazione gastroenterologia, all'ospedale Borsellino di Marsala. Buongiorno, dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Torniamo indietro negli anni, siamo negli anni 60, lei faceva la seconda elementare e aveva un problema con la scrittura, ma un incontro ha cambiato la sua storia. Sì, io avevo una difficoltà con la scrittura abbastanza grave, perché non riuscivo a scrivere più bene, scrivevo quasi linee. E ho incontrato una maestra di scrittura, che però era anche una neuropsichiatra infantile, che mi ha accudito e mi ha preso in cura con molto amorevolmente e mi ha reinsegnato a scrivere, attraverso un percorso, diciamo, proprio di accudimento, di prendersi cura del paziente, si direbbe oggi di umanizzazione della cura, diciamo. E dopo circa un anno io ho ripreso a scrivere anche meglio di prima. Dottor Vasta, ma questa sua maestra di scrittura, su quali elementi ha fatto leva? Ma questa maestra di scrittura ha fatto leva intanto sulle sue conoscenze psichiatriche o psicologiche sulla sua, insomma, scienza e poi principalmente sull'accoglienza del paziente, perché in quella casa all'inizio c'entrai come, diciamo, allievo per poter imparare la scrittura e poi diventai quasi, diciamo, un nipote, non devo dire, non posso dire un figlio, ma quasi un nipote della signora, che era una signora anziana e che, insomma, appunto si è dedicata. È questo, è la Le ha restituito dedizione al attenzione e tempi. paziente. Dottor Vasta, la sua storia è diventata un racconto autobiografico dal titolo L'ECG delle vocali e si è classificato al terzo al premio Juker per la narrazione 2012, in questo concorso della Fondazione Giancarlo IV Onlus, un concorso destinato ai medici che si trasformano in scrittori per raccontare appunto le loro esperienze di vita, le loro esperienze professionali, ma direi soprattutto umano. Complimenti alla Fondazione IV che con questo progetto ribadisce l'importanza della relazione tra medico e paziente, sottolineando il ruolo terapeutico a cui lei accennava dell'empatia e dell'ascolto. E a lei, dottor Vasta, per il premio. Come medico, quanto l'empatia e l'ascolto lo aiutano ad avvicinarsi ai pazienti, ad essere davvero un medico che dà le soluzioni e quindi quanto fanno parte della terapia? Ma guardi, per me fanno parte, sono la base di una terapia fatta nei riguardi di un paziente fragile che soffre, perché i pazienti sono tutti dei pazienti fragili, da qualunque punto si guardino. L'umanizzazione è una cosa che deve entrare necessariamente nel nostro approccio al paziente, e specialmente l'ascolto e l'accoglienza del paziente stesso, cioè la cura, che non deve essere soltanto dare dei farmaci e ascoltarlo pochi minuti, ma deve diventare un prendersi cura del paziente, un prenderlo in carico, uno specchiarsi in lui, perché potremmo anche noi essere lui. Grazie dottor Vasta, complimenti ancora per il premio, le La auguro una ringrazio buona molto. giornata. Beh, arrivederla, grazie a voi.